Buonasera, un caloroso benvenuto a tutti quanti. Scusate, questa è una biblioteca piccola, che però fa un sacco di cose e cerchiamo di arrangiarci con gli spazi che abbiamo a disposizione. E siamo dei veri resistenti, questo non me lo attribuisco a me, al mio team, a Patrick, a Elena, a Fabio, a tutti quelli che lavorano qui in questa biblioteca da 15 anni. E resistente anche e soprattutto Bruno Bertolli, che è qui con noi questa sera, che ringrazio tantissimo. Compirà, insomma, ha 95 anni, e questo bisogna dirlo perché è un pregio, un merito. Mi ha appena detto 96, eh? Quasi. Beh, 96, perché si porta avanti. Aspetta chi arriva, aspetta chi arriva. Si porta avanti. Comunque, ecco, l'abbiamo già conosciuto nel marzo del 2013, è venuto in questa biblioteca perché avevamo appena terminato di fare una video intervista un po' lunga, a puntate, e sempre con la collaborazione del professor Antonio Testini. Una video intervista che è andata ad arricchire il nostro archivio orale, che è costituito da 250 video interviste a persone che qui hanno abitato, abitano e vivono tutt'oggi. Bruno Bertolli per noi è interessante, poi non vi dico, non vi anticipo nulla, volevo semplicemente, ecco, dire che la biblioteca da sempre come prima mission ha avuto quella di costituire un archivio e di tesaurizzare la memorialistica locale, in particolare quella della comunità italiana, che non esisteva, e abbiamo iniziato 15 anni fa e stiamo vedendo i primi frutti. Ci sono racconti, ci sono storie, ci sono ricordi, memorie, emozioni, memoriali che arrivano in questa struttura, che nascono, si sviluppano anche attraverso delle video interviste, oppure diventano un libro come la storia di Bruno. E un'altra cosa che ci tenevo particolarmente a sottolineare è questa, ed è un mio pensiero personale, ma penso che potrà essere condiviso da tutti quando verrà letto questo libro. Bruno è un resistente non solo perché ha resistito a tante prove, a tante scelte, a tante imposizioni, ed è per quello che abbiamo scelto questa data all'interno di un festival delle resistenze, ma per me è soprattutto una persona che ha resistito alla seduzione dell'odio, della rabbia e del livore. Sarebbe stato giustificato che lo provasse nella sua vita, e invece non l'ha fatto. È una persona che in qualunque momento, nei nostri colloqui, nei nostri dialoghi, nella costruzione di questo libro, ha manifestato una serenità e una lucidità nel ricordare. Grazie. Ecco, ringrazio anche a nome dell'assessore Tomasini il professor Antonio Testini. Senza di lui non sarebbe stato possibile fare questo libro. Ha saputo cucire, raccogliere, scavare nella vita di Bruno e quindi impostare una storia che può essere letta con grande curiosità. E lo ringrazio perché si è dedicato a questo lavoro con tanta abnegazione, con tanta professionalità e passione. Ringrazio Leonardo Bertolli perché è qui con noi, è il presidente dell'ANPI, della sezione di Bolzano, ed è appunto la nostra un'associazione che ci ha dato una mano, collabora per questo progetto e come in tante altre occasioni ci ha dato una mano nel raccogliere delle memorie del territorio. Ringrazio Patrick Uru, che è qui in biblioteca, e Elena Molisani, che sono, oltre che tutti gli altri collaboratori della biblioteca, perché hanno dedicato veramente tanta attenzione con le interviste e soprattutto poi con l'editing di questo libro. Grazie. Cedo la parola a Leonardo Bertolli. Sono ai ringraziamenti, sì. Ma è abbastanza evidente che l'ANPI, che io rappresento, e accanto ad altri che sono qui, ringraziano la Biblioteca Claudio Augusta, perché senza la Biblioteca Claudio Augusta non avremmo potuto accarezzare il mio amico valsuganotto Bertolli, perché noi abbiamo trascurato per molto tempo, l'ANPI ha trascurato per molto tempo di mettere in evidenza che la resistenza non è stata fatta solo dai partigiani che scappavano in montagna con un libro o con un fucile, ma tante altre persone hanno resistito, e fra questi i più numerosi, per loro sorte, sono stati 800.000 soldati italiani, giovani italiani, che lasciati allo sbando dal re e dal governo e dai generali che scappavano, furono lasciati alla mercé dei nazisti che li imprigionavano. Questo lo presero combattendo a Cefalonia, ma tanti altri li presero anche senza combattere. Anche a Bolzano ne presero a migliaia, seminudi nelle caserme, con il fucile ma senza neanche le cartucce, li portarono fuori disarmati, li fecero andare prima al campo sportivo di Bolzano e poi guardati da guardie armate civili con una grande fascia sulla manica, li condussero nell'alveo del Talvera, che non era così bello come adesso è un bell'alveo, un giardino, ma allora c'era solo l'acqua che passava, e rimasero 2 giorni e 2 notti sotto l'acqua che imperversava, con gli occhi dei bolzanini che dal ponte Talvera guardavano i parenti che stavano dentro nell'alveo del Talvera. Furono portati via, questo è l'8 settembre, furono portati via il 10 settembre, di nuovo incolonnati dall'alveo del Talvera verso la stazione, sempre guardati da guardie armate borghesi, e andarono via e tornarono dopo 2 anni. Gli fu dato anche a lui, non so se gli hanno detto in tedesco o in italiano, ma anche a lui fu offerto di poter tornare a casa, di tornare a combattere o con la Repubblica Sociale o con la Wehrmacht, ma 650.000 di quelli che stavano già negli Stalag e pativano la fame dissero no. La resistenza italiana ha 650.000 no al fascismo, di questo la resistenza italiana è riconoscente, perché questa è stata la grande massa di coscienze e di cuori che ha sostenuto tutti gli altri che potevano combattere, anche quelli che erano in altri campi di concentramento come quello di Bolzano, o quelli che sulle montagne, pochi da noi, pochissimi da noi, proprio pesci fuor d'acqua, pochi nel Trentino, molti più nel Bellunese, combattevano in montagna, significando che volevano liberare quella che credevano la loro patria. Che cosa avevano fatto quelli che erano andati in montagna e che non hanno potuto fare loro? Molti, l'8 settembre, quando tutti scappavano, il re scappava più degli altri e Badoglio che lo seguiva anche lo seguiva, e i generali erano davanti che guidavano la fuga. Questi raccolsero forse un fucile, forse se lo trovarono, oppure un libro, e andarono in montagna, perché in montagna avrebbero potuto vedere da sopra qualche cosa, e furono così che si formarono le prime bande dei banditi, i primi banditi si formarono così scappando in montagna magari con un libro. È stata questa la nostra resistenza, ma è stato tanto forte, tenuta insieme da 650.000 cuori, che è stata capace di dire no all'orrore che qualcheduno aveva seminato. Ecco perché sono riconoscente a Valeria, sono riconoscente alla biblioteca Claudio Augusta, perché ci consente di onorare di un grande ricordo un mio paesano di Castelnuovo che si chiama Bruno Bertoldi. Allora, io ho il compito di presentarvi questo testo e poi di dialogare con Bruno Bertoldi. Antonio. Possiamo dire che viene distribuito dopo la fine? Sì, alla fine mi dicono che verrà distribuito alla fine della conferenza, giusto? Mm-hmm, sì, grazie. Ecco, io partirei da un assunto, se permettete. Stiamo vivendo in una società il cui ritmo di fondo è basato sul laccio, sulla sintesi chiassosa. Riflettere o ragionare o pensare delle sfumature, probabilmente tutte queste idee non seducono assolutamente. Allora, per esempio, dire che Tizio è scimunito, che la terra è ferma e il sole gira intorno, o lanciare in qualche trasmissione televisiva stamina, sicuramente si andrà sui network, si avrà la presenza sui mass media, si avrà spazio in questi luoghi dove mediatici, dove appunto, scusate la volgarità, prevalgono i cretini, almeno da un punto di vista intellettuale. Io invece stasera vi inviterei a riflettere, vi inviterei ad opporre per un momento all'urlo, all'isteria, la serenità, a pensare a questa storia che cercherò di narrare insieme a Bruno, a pensare a questa storia che è presente ma che si proietta nel futuro. E per queste storie, che non lo dobbiamo mai dimenticare come il primo contesto storico, che è nata la Repubblica Democratica fondata sul lavoro, e per queste storie che è nata la nostra Costituzione Repubblicana. Non lo dimentichiamo, e chi non la pensa in questa, come la penso io in questo momento, e come la pensano tante persone qui, se ne faccio una ragione. Stasera si parlerà di resistenza, di Costituzione, e si parlerà di una storia di un uomo normale, e ci ritornerò su questo concetto. Non va avanti, non so perché, c'è qualche problema. Li metti addosso il nervoso. Sì, si nervosisce anche la grafica. È perché c'è il mouse. Partirò comunque anche senza la slide da una frase latina che a me piace sempre ricordare: De omnibus disputandum. Nell'Ottocento andava di moda un giochino nelle famiglie vittoriane. I figli e le figlie chiedevano ai genitori, facevano una serie di domande per costruire la personalità del proprio genitore. Bene, le figlie di Karl Marx chiedevano al loro papà: qual è il valore, il tuo obiettivo? E lui rispondeva: la felicità. Cosa ti interessa? Lo vedete qui, non c'è niente che mi sia strano della condizione umana. E infine, qual è il tuo motto preferito? E Karl Marx, il grande filosofo Karl Marx, rispondeva: de omnibus disputandum. Cosa significa? Bisogna mettere in discussione tutto, non esistono delle certezze granitiche. E tuttavia, attenzione, negli incontri che ho avuto con Bruno, io ho sempre tenuto presente questo contesto, de omnibus disputandum, e mi sono reso conto però che a mano che lo intervistavo, a mano che andavo avanti, i fatti che raccontava erano fatti realmente accaduti, erano fatti che poi si inserivano in maniera molto precisa nei contesti storici, nei drammatici contesti storici all'indomani dell'8 settembre del 1943. E non vi nascondo che a mano che andavo avanti mi venivano in mente quei ricordi di studente delle superiori, quando allora si studiavano i Promessi Sposi, e se vi ricordate nell'introduzione dei Promessi Sposi c'era: l'istoria si può veramente definire, l'autore lì fingeva di citare, di aver trovato un manoscritto anonimo, segnalare che la storiografia è una sorta di guerra contro il tempo. Però la cosa importante, qui il lavoro davvero mi ha affascinato, è che questo storico, che chiaramente il nostro autore è Alessandro Manzoni, era venuto a conoscenza di una vicenda che vede come protagonisti gente normale, umile, di condizione sociale. Ecco, ricordandomi questo passo dei Promessi Sposi, mi veniva in mente, per esempio, che oggi, proprio rispetto a quello che vi dicevo all'inizio, oggi ogni generazione, l'ho scritto qui, l'ho voluto scrivere, ha l'obbligo di narrare. Il pericolo oggi che attraversiamo è che queste memorie siano dimenticate, poi le si può anche criticare, si può anche individuare degli errori, che pur ci sono, intendiamoci. Io lo dico sempre: non sono uno storico, sono un insegnante di discipline giuridiche ed economiche, quindi sicuramente in questi errori, in questo testo qualche errore, spero veniateci, sicuramente ci sarà. Però Quello che è importante è che queste narrazioni servono per non dimenticare, per evitare che appunto ci sia l'oblio. Sono veri questi episodi? Beh, io ho cercato di individuare dei contesti storici, di collegarli, come dicevo prima, dei contesti storici. Certamente sia insieme a Valeria e a tutto lo staff della Biblioteca Claudio Augusta, che qui ovviamente ringrazio, insieme a Lampi, abbiamo dovuto individuare e soprattutto segnalare un elemento dialogico, un elemento orale, e quindi bisognava interpretarlo, bisognava cercare di eliminare quello che poteva essere superfluo e ripetitivo. Dico subito che di superfluo e di ripetitivo nei racconti di Bruno non c'è assolutamente niente, anzi Bruno, per mia fortuna, ogni volta che lo incontro aggiunge sempre qualcosa alle sue vicende, per cui ti fa entrare anche in crisi, detto proprio dal punto di vista intellettuale. E tutto questo porta alla cultura che a mio parere è creazione di vita e elemento fondamentale dell'esistenza dell'uomo. Guai all'ignoranza, guai a coloro che dimenticano, appunto. Sentiremo tra poco come un uomo normale si trova ad affrontare situazioni drammatiche. La mia conclusione, anche da altre esperienze dirette e indirette, che solo chi ha sofferto durante la guerra o in altre situazioni costruisce un'idea valoriale, solo chi ha dietro di sé la sofferenza, chi ha visto morire il commilitone, chi ha visto bere l'urina o chi ha dovuto bere l'urina per dissetarsi, come è descritto nel testo. E attenzione, la sofferenza poi quasi sempre si accompagna con la solidarietà. Mi piace ricordare qui un'affermazione del Cardinale Martini: la solidarietà, e ripeto proprio alla lettera, ossia mettere a disposizione di Dio, ma perché è laico, per l'umanità e dell'uomo, le nostre umili capacità, solo nella condivisione, nel dono, la nostra vita sarà feconda e quel poco che abbiamo, o se condiviso, può diventare ricchezza. Vedremo nel prosieguo, voglio proprio lasciare quest'ultima slide perché nel prosieguo della discussione credo che verrà fuori anche questa impostazione. E allora io direi subito di cominciare a descrivere, a dialogare con Bruno, segnalando un metodo che ho voluto utilizzare per questo testo, il metodo sinottico. Ho preso tutte le tre interviste che ho fatto a Bruno, le ho messe vicino, le ho controllate e ho cercato di incrociarle, di far venire fuori gli elementi essenziali. Sentirete dei racconti affascinanti. Abbiamo un microfono, Bruno, dobbiamo sapercelo gestire. Tu sei nato a Mitterdorf in Austria, sì. Perché? No, per quale strana ragione? Quello, i miei genitori gli è stato portati via dall'imperatore, dall'esercito austro-ungarico, perché la famiglia di mio papà era venuta a trovarci nel fuoco. Una bella mattina i gendarmi dice ai contadini: lasciate qua tutto, vi portiamo via perché qua è il fronte. E allora dovettero abbandonare la stalla, perché allora eravamo tutti contadini. Il mio paese, Carzano, Valsugana, 600 anime, non avevo né un telefono, né una bicicletta, né una macchina, niente. Là si viveva con quello che produceva la terra. Ognuno aveva una mucca, come adesso che i costi pieni di automobili. Allora c'era i costini pieni di galline, e le donne se le scambiavano, i poiati e meglio, la gallina la sua, stasera te la do, domani si deve andare a me. Così la mia famiglia fu costretta a abbandonare tutto, la misero su un treno e li portarono a Mitterdorf. Là era un concentramento di baracche, queste sono cose raccontate dalla mamma, perché lui non aveva ancora da nascere. In queste baracche gli aveva messo, a secondo dei componenti della famiglia, gli aveva delle divisioni, non pareti, ma delle tende. Da una famiglia all'altra, su sta baracca, avevano una tenda che li separava e basta. E là gli ha vissuto fino alla primavera del 1919, quando mi ero nato a Mittendorf, perché mio papà e mia mamma li si conoscono di là, perché mia mamma era una rivana e mio papà era un valsugonotto. E niente, mi sono nato a Mittendorf il 23 ottobre 1918, sono stato battezzato là, e nel maggio del 19 gli fui autorizzati a ritornare al paese. Allora, amico, avevo 6 mesi, che è quella foto che è su là, la prima foto, gli è tornati qua in Italia, la mamma di Riva, il papà valsugonotto, però delle due famiglie io mi ero il primo nato, allora ero anche un po' coccolato. I nonni della mamma, i genitori della mamma, pretesero da sua figlia di non tenermi sui paesi, perché là era una miseria nera. Mi presero a Riva. A Riva del Garda mi fecero fare fino ai 6 anni che andai a scuola l'asilo. Ecco, allora ascolta Bruno, chiaramente non possiamo ricostruire. Dire, perché sennò che vuole un libro. No. Io me lo ricordo tutto, con tutto. Ascolta, qua Bruno, perché fra Bruno, sofferenze, cioè, parlo di scappare. Io vorrei focalizzare l'attenzione tua e del... Forse sta gente se... qua, non so, ma non che sarà nessuno che ha la metà. No! La metà non che nessuno di persone, allora, a quei tempi per maiare un tocco di pan bisognava che la gallina faga l'uovo, non che era soldi. Niente, non mi ricordo. Allora, focalizziamo un po' l'attenzione sulla tua vicenda, quella essenziale che ti porta a Cefalonia. Allora, tu fai le scuole. Sì, ho fatto la scuola d'obbligo. Uno zio di mamma, di mia mamma, consiglia. Costringe mio padre a fumare, perché allora bisognava. Tu ti trovi con la divisione Acqui a Merano, e da Merano poi vai in Albania. In Albania, prima. Sbarcati a Durazzo, poi lì dall'Albania vai sul fronte, diretti. Siamo intorno al 1943. E quando eravamo là? 41. Ecco, successivamente ti trovi a Cefalonia. Ecco, partiamo da Cefalonia dall'8 settembre del 43. Ah, l'8 settembre, lo saltiamo via, sì, la permanenza. Lo leggeranno sul libro. Sul libro, ecco. Sì. L'8 settembre, la mattina dell'8, quando andavi Mussolini. Sì, certo. Quella sera là mi portai il generale, siccome io là facevo l'autista. Quando è scappato il re. Facevo l'autista, io ero al comando del quartier generale della divisione Acqui. La divisione Acqui era una forza armata composta da 11.500 militari, era 512, 513 ufficiali, e furono destinati a presidiare le isole ioniche. Questi 11.000 e tanti soldati, li ha messi fra le divisioni, fra le isole Corfù, Cefalonia, Dante, Santa Maura e Leucada. C'è Santa Maura, perché in greco è l'escala. A Corfù il comando della divisione rimase 5-6 mesi, poi presero l'ordine di trasferirsi sull'isola di Cefalonia e partimmo da Corfù, andiamo a Cefalonia. A Cefalonia si viveva tranquilli, di guerra non se ne parlava, uomini non esisteva, guerra, donne, popi, ragazzi e bambini, vecchi. I giovani erano scappati tutti, cioè militari, partigiani, l'isola era comandata dalle donne. E noi là si fava un po' i galetti, e ne aveva battezzati l'armata Sagapò, cioè l'armata dell'amore, perché in cinque isole là per noi parlare di guerra non se ne sentiva. Là non avevamo mai visto un tedesco, mai passava un aereo, veniva due volte alla settimana un idrovolante, portava la posta da Bari, perché eravamo di fronte a Bari, e lì si passava il tempo tranquilli, mangiare, bagni al mare, al sole, e intanto passava il tempo. Ecco, allora arriviamo all'8 settembre del 43. L'8 settembre la sera portai il generale alla Mincia e, senza sapere cosa era successo in Italia, tornando indietro mi trovai la strada sbarata. Già qualcuno, sapendo che era caduto Mussolini, i greci già si sentivano cioè che noi eravamo come oppressori là, perché era occupata l'isola. Mi misero una sbarra in mezzo alla strada, il generale non mi disse neanche niente di colpo, perché io scesi, presi questa sbarra e la spostai e passai, portai il generale a casa, e la mattina siamo venuti a sapere che Mussolini era caduto, e niente, è andato avanti così. La cosa continua andando avanti fino che l'8 settembre. Però noi qua dobbiamo tornare indietro, perché sull'isola noi non avevamo mai visto un tedesco. Però in agosto, tornando indietro, nell'agosto, una mattina arriva una nave con la croce uncinata su, tutti a guardare, arriva in porto, smonta il comandante, cerca il comandante della divisione, si presenta al comando e dice: io sono stato mandato qua, due battaglioni di carabinieri di fortezza per aiutarmi a controllare, cioè tenere l'isola, per difendere l'isola. Però noi là i tedeschi non l'avevamo mai visti. In principio si andava anche d'accordo, ma il comando tedesco si divise fuori, perché di due battaglioni, uno arrivò a Costoli e uno andò a Ixuri, che è di fronte al golfo, dalla parte di là. E si andò avanti fino al 15 settembre. Il 15 settembre il comandante tedesco si presentò al nostro generale e gli dice: qua, voi altri la guerra l'avete finita. Appunto, adesso arriviamo. Allora, 8 settembre, quindi come segnalò e tu eri presente nel 2001, Ciampi alla manifestazione Acqui, gli italiani dovettero fare una scelta: o passare con i tedeschi, sì. o cedere le armi. Ah, sì. Allora arriviamo a un punto fondamentale di chiaramente gli storici sono divisi, ci sono tante polemiche, tu sei uno di quelli che non credi che ci sia stato un referendum. No, non c'è stato un referendum. Per un altro filone storico sembra invece che Gandin, dopo il generale Gandin, che era il capo della divisione, dopo aver preso tempo perché aspettava ordini dallo Stato Maggiore e da uno Stato che in quel momento ovviamente non c'era più, quindi prendeva tempo. Bene, una volta ricevuto l'ordine dallo Stato Maggiore, che chiaramente i nazisti diventavano i nostri nemici, c'è l'ordine del giorno. Bene, allora ci fu questo. Tu che referendum direi una mobilitazione, capire qual era il senso della truffa. Forse ci è sfuggito segnalare, per quello che accadrà dopo, che le forze tedesche avevano la copertura aerea, noi non avevamo copertura. Ma che niente! Avevano unità mobili, noi non avevamo unità mobili. Eravamo su territori abbastanza aspri, collinosi, dove era molto difficile anche muoversi. Quindi teniamo presente anche questo. Dunque, al di là del referendum, al di là del Gandin ascoltò i cappellani militari, eccetera. Quello là con i cappellani militari è vero, perché sì, quella sera lì ho portato io il generale per sondare un po'. Sì, lui arrivò fino a fare un plebiscito con, i cappellani. Ecco, però, erano sei cappellani, però dopo cinque furono d'accordo di non combattere. Uno invece era un po' sovversivo, dice no, no, noi d'accordo con due o tre capitani e un colonnello che comandava il 33 reggimento artiglieria, quelli erano contrari, non volevano cedere. Però Bruno, dunque, la decisione di Gandino fu quella famosa risposta a noi... Sì, che i militari si rifiuta i suoi ordini. Allora, da quel momento in poi, da quei giorni in poi, comincia la battaglia, la tragedia. Questo era il giorno 15. Al di là, io l'ho voluto sottolineare sia nel testo ma anche nell'altra conferenza, referendum, mobilitazione... Rockart, lo storico, ha scritto una bella frase: la mobilitazione degli animi. Però nel momento in cui gli Stukas cominciano a bombardare Cefalonia, nel momento in cui i tedeschi commettono quegli atti contro gli italiani, eccetera, beh, da, almeno su questo gli storici sono tutti d'accordo, non ci fu un caso, un solo caso di italiano che passò dall'altra parte. No, non ricordo che ci sia stato. No. Ormai eravamo tutti d'accordo da non chiedere le armi ai tedeschi. Sì. E anche il generale si è convinto, perché in un primo momento anche Gandini ha sempre continuato, per 5-6 giorni, ha continuato a tirare avanti e continuava a trovare delle scoperte nuove di fronte al comandante tedesco. Nella speranza che da Bari arrivasse qualcuno, perché eravamo abbandonati. Certo. Ma ormai quella mattina là, quei tre capitani con le tre batterie appoggiate nel golfo, quando entrarono i rifornimenti, il capitano Polonio, sì, il capitano, ecco, sì, diede l'ordine, caricate i cannoni e partirono tre salve. E due delle datere furono affondate. Una riuscì a far marciare e scappò. Però da quel momento cominciò il bombardamento. Senti, un'ora dopo. Puoi descrivere qualche atto di violenza a cui hai assistito? Vabbè, casomai l'aviazione, perché loro avevano tutti i dati precisi delle postazioni che avevamo noi italiani, comando, l'ospedale, il deposito munizioni, e quelli sono stati i primi centri che hanno bombardato. Nel giro di un'ora e mezza, una trentina di stucca sotto la città era tutta in fiamme. Gandin viene fucilato nella casetta rossa. Gandin le sta fucilando, il generale che mi sta fucilando davanti a me, era il giorno 21. Gandin sta fucilando il giorno 22. Ecco, tu stavi per essere ammazzato. Madonna, con le mani alzate così. Adesso bisogna arrivare a raccontare la storia. Cioè, perché nel 1937 ero militare e a Verona stavo facendo un corso sotto ufficiali. E eravamo due, uno di Bolzano, un certo Koffler, che abitava sopra qua a Santa Maddalena, e mi, Valciuganotto di Trento. E eravamo diventati amici, gli unici due che facevo questo corso. E arrivati un po' di tempo dopo, nel 38, la sua famiglia optò per andare in Germania. E il padre e la sua famiglia andò e dissero: io ho in Italia un figlio che fa il militare. La mattina vennero a prenderlo a Verona, lo portarono via e io non lo vidi più. E allora cosa succede? Passò il 38, il 39, arriviamo al 43. Il 43, e il 43 il settembre del 21 mattina alle 10 e mezza mi trovo uno con un martin pistole che mi vuole fucilare, e era questo tedesco. Prima eravamo italiani militari a Verona. Di colpo io non l'ho conosciuto, probabilmente non avrei mai pensato che fosse lui, ma senz'altro era lui, perché era tutto camuffato. Quando lui ha sentito che io capivo che mi volevano fucilare, perché erano i tre, lui davanti capopattuglia, quegli altri due di dietro portavano munizioni e mortaio e avevano il massimo pistole a tracolla, perché se quelli avessero avuto il massimo pistole in mano, quelli mi avrebbero ammazzato. Invece quello primo davanti, che mi ha conosciuto, non ha avuto il coraggio. Quando è arrivato un po' a 5-6 metri, mi ha detto: ma te capisci il tedesco? In italiano così, eh? Ho detto: ma te, di dove sei? Ma te, sono un trentino, no? Porco italiano, mi ha detto, mi hai anche sparato addosso. Comunque mi ha dato due calci e mi ha detto: scappa. E questo... da quel momento sono arrivato in piedi. A proposito delle aggiunte, questo in particolare che scopro stasera, perché non ne sapevo sempre. Stasera sento dirlo anche là, non lo so, anche giù al tribunale militare. Signora Lia, amore Lia. Allora, dopo questa vicenda ti rifugi dalle famiglie greche, trovi la solidarietà, poi però ti consegni ai militari, perché queste famiglie greche c'erano i volantini che buttavano lì, erano minacciate, insomma, se davano volevano bruciare il paese dove erano nascosto. Ti consegni ai tedeschi. Ti devono portare ad Atene, però loro mi volevano costringere a vestire la divisa tedesca. Tu non me la davano da contento. Te sei nato in Austria, te sei stato salvato da noi, sei uno un altro tesino e te devi vestire la divisa tedesca. E io gli dici: guardi, guardate che di guerra ne ho fatto abbastanza, io la divisa tedesca non la metto, io sono un prigioniero di guerra e tale voglio rimanere. Allora mi hanno detto: il tuo destino sarà quello che sarà. Nel trasferimento da Cefalonia ad Atene, ricordiamo che tre navi, l'Atena, la seconda andarono a fondo, la Margherita, la Marguerita, nomi non mi ricordo, sì, tutti e due andarono a fondo, la terza. Quella che passai via io e arrivò a Pireo, dal Pireo, come poi al Pireo mi presero e mi misero anche là sotto torchio per quanti giorni. Però io l'idea mia era quella di guerra, non ne volevo più sapere, e allora mi misero su un'altra rotta e mi dissero: il tuo destino te lo troverai te, come te la caverai, dove ti portano, e mi portarono a Leopoli. E là dentro ci misero là una disperazione, là l'umiliazione, si dormiva per terra senza mangiare, ho bevuto anche la mia urina là per sopravvivere, perché avevo tutti gli altri anche 3 giorni senza mangiare. E a un certo momento non so neanche quanti eravamo là dentro, so che ne morivano giù tutte le notti, ogni giorno accendevano un falò e li bruciavano, e arrivò una commissione di tedeschi, cercavano della gente capace di andare con le macchine, e nella miseria che ci trovavamo, io d'accordo con altri tre, dici: proviamo ad andare con questa gente, andiamo fuori da questi reticolati. E così facemmo. Ci presero, ci misero su una tradotta e ci portarono in Ucraina, a Kiev ci fecero scendere. Là era un concentramento di mezzi corazzati vicino al fronte, perché i tedeschi erano a 40 km da Mosca, e dovevamo lavorare dalle 9-10 ore al giorno, sempre con le SS dietro armati, una specie di lavoro coatto, la manutenzione di mezzi corazzati. Facciamo questo lavoro qua per 6 mesi, trattati bene, avevamo il nostro capannoncino, la nostra baracchetta, eravamo una quarantina di persone, 4 italiani, gli altri erano 36, erano ebrei, tedeschi, russi, polacchi. A un certo momento là arriva l'ordine che l'esercito russo sta avanzando, i tedeschi cominciano a preoccuparsi, bisogna la ritirata. Allora il maresciallo che comandava, dove eravamo noi là che ci lavorava, era anche un uomo abbastanza umano, aveva 2 bambini, io avevo un po' di confidenza con lui, avevo capito che era contrario a Hitler, però a un certo momento, quando lui prese l'ordine di che noi dovevamo caricare tutto quello che ci poteva sul treno, quando il treno partiva, poi le SS facevano saltare tutto quanto, binari, ponti, tutto. Però noi prigionieri dovevamo essere eliminati, avevano l'ordine i prigionieri di non portarli dietro. Maresciallo mi dice: ma se io non ho la forza, non ho il coraggio di ammazzarvi, cosa pensate di fare voi altri? E noi 5-4 gli abbiamo detto: beh, gli altri erano delle donne là, tutti sapevano la lingua, e noi 4 italiani, e noi scapperemo. Io ho detto: basta che ci lasci vivi. E il maresciallo dice: beh, io facciamo così, non mi mettete in guardia, non mettetemi nelle rogne, io il vagone che dovrei mettervi su per portarvi dove dovrei fucilarvi, ve lo lascio aperto, io chiudo il portellone, perché le SS controllavano le SS, però non ha messo la sbarra. Esternamente c'era una sbarra che chiudeva, lui ha lasciato giù la sbarra con la forza che il treno è partito. Appena che il treno ha cominciato lentamente, noi siamo saltati fuori. Ecco, voi credevate di venire su, invece cosa succede? Vi spostavate verso i sovietici, andavamo verso la Polonia, verso la Polonia. Ci camminava, noi avevamo per sopravvivere in quegli 8-10-12 giorni che abbiamo camminato in quel modo là. Mi ricordo che noi, non so qua se qualcuno anziano si ricorda, le nostre mamme ci mandavano nelle lettere delle medagliette di alluminio con sulla Madonna, loro usavano così. Noi avevamo delle medagliette attaccate qua, che era sulla Madonna, perché è così la religione, no? Allora, con queste medagliette noi sopravvivevamo, perché le donne erano tutte cattoliche, cioè religiose. Con una medaglietta prendevamo una cleva così grande di pane, abbiamo venduto queste medagliette e con queste medagliette qua siamo sopravvissuti. Altro particolare aggiunto che non si... Dobbiamo fare una seconda edizione. Allora, a questo punto intervengono i partigiani. Allora, quando una mattina dopo che si dormiva la macchia sotto le cipolle, ma ci svegliamo fuori, ci vediamo circondati da una decina di gente con tutti armati, erano partigiani polacchi. Allora noi, Tagliaschi, vabbè. Chi pure, no? Potessero pure i tagliaschi. I polacchi, anche loro, i polacchi, perché tanti sul confine, come parla noi, parlavano russo. Comunque ci presero, volevano che noi facessimo sabotaggio con loro, perché era l'esercito tedesco in ritirata. In quel momento una confusione, gente che moriva, bombardamenti russi, camion dove erano li bruciavano dappertutto, morti che c'era dappertutto. Niente, a un certo momento i polacchi volevano che di notte andassimo con loro a far uccidere i tedeschi, perché loro facevano un sabotaggio, facevano saltare i camion in ritirata, avanzavano chi era su, prendevano soldi, mangiare che avevano, scarpe, vestiti, armi, e li spogliavano. E noi ci siamo rifiutati, gli abbiamo detto no, guarda, noi di guerra ne abbiamo fatto, abbiamo già fatto anche i prigionieri dei tedeschi, ma sabotaggi contro i tedeschi noi non andiamo a farli, stiamo qua, vi facciamo quello che volete, però di sabotaggio lì. E così riuscirono a combinare che noi tiravamo avanti questo distaccamento di partigiani. Io avevo il compito di andare a prendere l'acqua, Ribaga, quello di Chiarno, pelava patate, c'era Bonata, quello di Chione, che faceva altri lavori là. Insomma, tutti e quattro questo lavoro, però eravamo arrivati in tre, perché dopo, questo è successo dopo, quando è morto quello durante il tragitto, a un certo momento sono venuti avanti i russi e i stipolati gli hanno detto: questi sono italiani, mani in alto, italiani, carasso, italiani sono buoni, però chitarra, mandolino, maccheroni e chirichiri. Spieghiamo il chirichiri. Chitarra e mandolini e maccheroni, beh, italiani, noi era il nostro emblema. Ma il chirichiri, nessuno pensava quello poteva essere. E invece il chirichiri, perché allora, il signor Mussolini aveva fatto il militare dei bersaglieri. Sì, ricordavano. Questo l'abbiamo saputo perché nell'esercito russo avevano messo tutti quei fuoriusciti italiani che erano scappati dall'Italia, dal fascismo, e ce li avevano messi con noi. E là gli italiani nostri ci venivano a spiegare cosa faceva l'esercito russo. Allora ci dissero un giorno che il chirichichi era perché Mussolini, il bersagliere, aveva le piume. Quindi anche lì era ridicolizzato il signore. Andiamo avanti. Niente, da lì i russi ci presero e mi portarono prima a Mosca, da Mosca a Tambov a piedi. Ecco, scusa, Tambov fu il campo di concentramento da dimenticare. Già nel 19 era stato il primo campo di concentramento durante la guerra civile tra bianchi e bolscevichi, era stato già un campo di concentramento. Io al mio paese. Scusa, Ciampi era stato a Campo, sì, nel 2000, è stato uno dei pochi presidenti della Repubblica di andare a Campo per ricordare i morti dell'armata Almiro, dei prigionieri che furono tenuti a Campo. Sì. Avrei potuto andare anch'io là, ma io non ho voluto andare, no, io parlare della Russia. In Grecia sono andato 7-8 volte là, ho portato anche mia moglie, dove mi sono salvato e tutto, però in Russia no. Va. Allora, da Tambo, poi prego. A Tambo siamo stati, dunque, luglio fino al febbraio del 44. Sì. Là è scoppiata un'epidemia, quanti morti li bruciavano tutti alla mattina, ogni mattina un mucchio là, sembravano un mucchio di legna, li mettevano tutti incrociati, un po' di benzina, via, bruciavano senza prendere nome, senza prendere niente, perché io là in Russia sono stato quasi 2 anni, non ho mai trovato uno in controllo che mi ha detto come si chiama. No, no, io avevo un numero e quel numero esisteva, fino che eri in piedi, quando cadevi, cancellato il numero, a posto. Allora, da Tambo poi ti trasferiscono? A Tambo è successo questa epidemia, ci hanno fatto fare una specie di quarantena a quelli che sono riusciti a sopravvivere, e questi pochi vivi, circa 300 di 8.000 che eravamo, ci hanno messo sulla tradotta e mi hanno portato a Tashkent. E lì hai lavorato nei campi di cotone? Il febbraio del 45 siamo arrivati là e ci hanno fatto fare la piantagione del cotone, zappato, e a ottobre si incominciava a raccoglierlo. Da quella la mattina si usciva dal campo cantando bandiera rossa, che io prendevo le botte tutte le volte perché non avevo il coraggio, neanche la forza di stare in piedi, però mi bastonavano, beh, pazienza, ci davano 2 sacchi, eravamo la fila così, 10-12 persone in fila indiana con i sacchi in mano, e avevamo un ragazzo con il machine pistole, con il calacnico, che ci controllava, prendevamo i ciuffi di cotone, li mettevamo nel sacco, ogni tanto gridava Smirre, voleva dire attenti, no? Allora, bisognava alzare la testa, mettersi in piedi così, e lui contava col machine pistol, col calatico, uno, due, tre, quattro, cinque, perché ne aveva 10-12 in consegna, no? E quando aveva contato faceva Zavai robota, una razza sulla testa, se non facevi presto, ha detto giù, tamatava. Così si andava avanti. Comunque, finito, stavamo raccogliendo cotone una mattina dopo tutti questi lavori, e vedevo uno cavallo che veniva davanti, gridava Tagliasti, davai domo, italiani, andate a casa. Chi è che pensava più alla casa? Ormai era dal 43 che a casa mia non sapevano più niente. Comunque ci misero di lavorare, novembre del 40, ci portarono in campo. Con 4 stracci che avevamo. Dov'era sta città, sto posto? Russia asiatica. Russia asiatica. Dopo il lago Aral. Una parentesi, ho conteggiato i chilometri che ho fatto partendo da Bolzano per arrivare, ho fatto 14.000 chilometri. 14.000 km. Non ancora. Adesso è anche freddo in inverno. Laggiù? No, laggiù no, ma a Tambov arrivavamo a 30 gradi. Allora, arriviamo da Tankes, Italianski Doma. Allora ci portarono al campo, ci presero con le 4 stracci che avevamo, ci misero in cammino e ci portarono alla stazione di Tambov. Da lì era la tradotta pronta. Allora, semplificando, arrivate a Vienna. A Vienna, sì. A Vienna non è che scendi subito dal treno, no? Io a Vienna ero rinchiuso dentro un carro bestiame dal 13 ottobre, tutto ottobre, novembre fino al 17 di dicembre, senza mai uscire fuori dal carro bestiame. Dentro vivere con un buchetto per i bisogni corporali, basta, non c'era niente. Quando uno moriva passava 2 o 3 giorni senza che tirassero fuori i cadaveri, cosa si faceva? Mettevamo dietro il bidone, dietro la sponda del carro, mettevamo su un straccio e ci portavamo sulla testa come un cuscino. E con quello si dormiva tranquilla, intanto che andava il treno. A Vienna allora succede altro episodio, a Vienna arrivamo il giorno 15 o 16 dicembre, non mi ricordo bene, comunque era quel mese là, quando, perché a Vienna era divisa in quattro, in quella zona, a quei tempi i quattro belligeranti ci avevano diviso la città. Sì. Allora noi siamo entrati sulla parte russa e dalla parte di là erano gli americani. Là ho visto i primi americani, che non avevo solo sentito parlare, però non avevo mai avuto contatto di aver visto un americano. Mi ricordo che siamo rimasti sbalorditi perché passavano sui jeep e avevano le bottigliette di Coca-Cola nel taschino, qua gli americani com'erano, sigarette, cioccolata, la c'era di tutto. Comunque non ti fanno scendere subito da lì. No, no, no. Quando a Vienna, quando che i russi ci passarono in mano agli americani, passò qualche ora, poi arrivò una commissione, aprirono i primi carri, si presero le mani sugli occhi, chiusero i carri e andarono via. Noi ci mettemmo a gridare perché avevamo paura che non ci prendessero neanche, che ci ridassero i russi. Invece avevano visto le condizioni che eravamo dentro, no, nessuno aveva il coraggio di metterci le mani addosso. Io avevo la barba fino qua, piena di pidocchi, ogni tanto facevo così e gli scorlavo giù. Era dall'ottobre che non me la tagliavo più. Cosa vuoi fare? Niente, ci hanno messi, siamo stati fermi un po' di tempo, qualche ora, poi arrivò una commissione di gente vestita di amianto, con delle bombole sulla schiena, di lì. Ci chiusero gli occhi, il naso, no, il naso ci misero due filtrini, chiusero gli occhi, le orecchie e la bocca, mi riempirono di DDT come la mummia, tutto bianco, là seduto giù che non ero neanche capace di stare in piedi, però tutto pieno di DDT, e ci lasciarono lì una mezza giornata, anche forse di più, non mi ricordo bene. So che a un certo momento arrivarono delle dottoresse americani con delle pinzette, prelevarono certi cose dai peli qua sotto e messi sui due, poi andarono a vedere dove avevano i suoi laboratori. A un certo momento arrivarono, aprirono il bagno, adesso venite giù. Chi era capace di camminare, chi non era, ci aiutavamo uno con l'altro, ci tolsero tutti gli stracci che avevamo, ci fecero fare una doccia e incominciarono a darci da mangiare. Che fu quando poi ci portarono a Innsbruck, perché questo... poi da Innsbruck a dicembre arrivi a Bolzano, a dicembre arrivai a Bolzano, sì. Saltiamo un po', allora arrivi a Bolzano, da Bolzano finalmente pissi. A Bolzano qua mi fermarono alla stazione, mi ricordo che tutti quelli, io penso che saremmo stati una cinquantina su tutti quanti della tradotta che non hanno mandato a Merano, se no eravamo tutti in condizioni da noi. Allora da Bozzano poi ti mandano, sì, finalmente arrivi a casa tua. A me mi fecero una visita così, sì, sì, tre o quattro dottori, mi guardarono e mi dicevano: ma te scusa, non hai mica niente, sai? Come non ho niente? Ero capace neanche di camminare. Ho detto: ma no, te sei magro, sei stecchito qua perché non hai mangiato, ma hai tutti gli organi sani, non ti mandiamo mica a Merano, sai, ti mandiamo, dove abiti? Abito in Valciugana, l'ospedale vicino a Borgo, un chilometro e mezzo. Allora sei a posto, ti mandiamo al tuo paese, stai là tranquillo, ti mettiamo in mano a un ospedale, ti cureranno loro e ti vedrai che te ti metti in piedi. Allora, invece che mandarmi a Merano, come tutti, mi misero sulla tradotta e non mi mandarono a casa, mi mandarono a Pescantina. A Pescantina mi tirarono giù e mi tennero là due o tre giorni, anche tre giorni, sì sì, sull'interrogatorio. Volevo sapere dove eravamo stati, morti, chi, dove avevamo visto, se sapevamo nomi. Io avevo il nome di uno, quel poveretto di Bonata, era morto là, mangiato dai pidocchi, e prima di morire mi aveva detto: guarda Bruno, se te vai a casa, io ho un bambino a casa che non lo conosco neanche, era nato che lui era già, sì, in, sì, Grecia, se per caso hai la fortuna che arrivi a andare, perché là si arrivava a parlare così, era, ormai eravamo persi, ti ricordati che vai a casa mia e vedi, di a mia moglie come fa, cosa ho combinato. E infatti io sono riuscito a farlo, là questo poveraccio è morto, quando sono venuto a casa ho cercato la moglie con i carabinieri e l'ho firmato che l'ho visto morire e ha preso la pensione di guerra. Adesso quel ragazzo lì ha 73 anni, lui ogni tanto mi telefona perché è venuto a sapere, non so come, è venuto a sapere il mio nome, è venuto a trovarmi a casa e ha voluto che gli raccontassi come è morto il papà. Ascolta, allora a Trento, da Trento finalmente arrivi, a Trento mi hanno tirato giù, non ero capace aspetta, di camminare. A Trento arrivi finalmente. Allora sì, ma non mi fai una colonna, me l'ho detto aspetta qua, quando viene il treno per la Valsugana ti mettiamo ti mettono sul treno della Valsugana, finalmente arrivi. E difatti alla sera alle 9:30 però lì al tuo paese succede altro fatto. Al mio paese arrivo dicembre del 45, mezzo metro di neve per terra, 10 gradi sotto zero, il treno arriva alle 22, manca qualche minuto, un paese di Castelnuovo, se non è sceso nessuno. E quando arrivava il treno erano che a vapore là, e mi ricordo che veniva fuori il capostazione, accendeva la luce e metteva il timbro nel capotreno, metteva il timbro che era passato, poi fischiava, il treno partiva, spegnevano le luci e io sono sul quarto vagone. Di dietro, allora i vagoni non erano come adesso le carrozze, erano tutti di legno. Ogni scompartimento aveva una porta, non so se c'è qualcuno che se lo ricorda, ma i treni erano fatti così. Ogni scompartimento aveva una porta. Allora a Trento mi misero due ferrovieri, mi aiutarono a salire perché non ero capace di camminare. Mi sedetti giù là, ma arriviamo a Valsugana, a Castelnuovo. Arrivo là e mi dice: dai, guarda che sei arrivato. Dico: ma te mi devi aiutare perché se no non riesco da giù. Perché allora le carrozze non è come adesso che sono a pari, erano tre gradini, erano alte così da terra, perché i binari erano giù. E lui: sì, ti aiuto io, apre la porta, io ero vicino qua, mi prende qua di dietro e mi accompagna. Io faccio i due gradini sotto, il terzo gradino, lui era convinto che fossi arrivato giù, invece mi molla e io sono caduto giù. E sono andato in mezzo alla neve. Quell'altro davanti fischia, chiude la porta, il treno spegne la luce, il treno parte e io rimango là sotto il mucchio di neve. Alle 10 di sera, non capace di camminare, niente, là dovevo morire. Però cosa succede? Però sembra fino a un destino, là in paese mio c'è una segheria e quella sera, guarda caso, il capo sega si era dimenticato di mettere sul carro dove avevano caricato il legname la targhetta dell'indirizzo della ditta che doveva andare a fare il legname. E alla mattina alle 8 passava la locomotiva e prendeva la carta. Alla sera alle 10 erano in osteria là che giocavano le carte, aspetta prima che venga, vado giù a mettere giù l'etichetta. Erano le 10 di sera. Sono i due, si è preso dietro un altro amico che lavorava nella segheria e vanno giù, mettono su l'etichetta su questo carro, però uno ha sentito gli aventi e ha detto: ma qua c'è qualcuno, ma cosa vuoi che ci sia? Ha detto: sarà qualche animale, no? Ero io che piangevo là sul mucchio di neve alle 10 di sera. Allora quello, erano due, uno si chiamava Guadagnini e l'altro allora questo prende fuori un fiammifero, accende il fiammifero perché era tutto buio e comincia a girare il mucchio di neve. A un certo momento vede, io ero giù con la pancia così per aria perché ero caduto giù dal carro, ero andato in mezzo alla neve, avevo un colbacco con sulla faccia il martello, quello passa col fiammifero e ostia, l'ha detto: che qua un ruffo, di colpo l'ha visto la faccia il martello, non ha visto altro, e fa: ostia, di qua un ruffo. E io capia, dico: ma cosa vuoi, russo d'Egitto? Io sono il fiol di Bertoldi. Ma che fiol di Bertoldi, è morto che le doani. Era il paese, ormai non sapeva più niente, dal 43 non sapevano più niente. No, non sono morto, mi sono qua. Allora quello, l'altro che era un po' più robusto, vieni là vicino, mi guarda e fa: beh, dai, vieni su, Manuzzella, faccio camminare, ti porto adesso. Allora, quello robusto aveva preso sulle spalle, mi ha caricato, pesavo 40 kg, e quello di dietro, più piccolino, era più mingherlino, mi teneva una mano qua sul sedere, tenermi contro la schiena di quell'altro, perché non cadessi giù. No. E mi portarono in una trattoria, là, mi sedettero in mezzo, 10 minuti dopo che era tutto il paese. No. Si vede che non dovevo morire. Grazie. La conclusione, forse ci sono domande, siamo a disposizione. E come mai poi ti trovi a Bolzano a lavorare nel centro? Ah beh, sì, quello. Io dopo 6 mesi mi sono rimesso, avevano ragione i dottori qua. A casa mangiavo, mia mamma scappava dalla cucina quando mi vedeva mangiare perché gli veniva da piangere. Per un pezzetto di pane continuavo a camminare, continuavo a succhiarlo fino a che trovavo il posto che andava giù. E ormai qua si era chiuso tutto. Per sopravvivere io ho mangiato anche 10 rane crude in un giorno. Oh, ma no. Le prendevo, gli levavo la pelle, gli interiori e la testa e il resto mangiavo tutto. E dopo mangiavo i denti di cani. Quindi conoscevo, mi lavavo nell'acqua, mangiavo foglia e radice tutto. La sopravvivenza è quella. Là, per esempio a Tambov, ci sono stati casi di cannibalismo. C'era della gente che di notte levava su, andava fuori dalle baracche, quarciavano i morti, prendevano fuori il cuore e lo bruciavano, e mangiavano il cuore di cristiani per sopravvivere, non aveva niente da fare. Ecco, allora Bolzano, come trovi poi Bolzano? Come mai? Sì, dopo 6 mesi là in paese ci fu, c'era il lavoro in Santa Giustina, avevamo un ragazzo lì del paese che faceva una specie di capocantiere e dice: guarda che se vuoi venire a lavorare noi ti prendiamo, io ti prendo subito, lassù c'è un'officina, abbiamo bisogno di uno che abbia a fare questione con i motori. E così cominciai a lavorare quando stavano facendo la diga di Santa Giustina. Là lavorai 6 anni fino al 51. Al 51 ero stanco perché avevo una certa età, avevo questa morosetta, avevo voglia di fare una famiglia, ero sempre in giro, e allora ho fatto domanda agli acciaierie di Bolzano. Come ho fatto domanda, mi presero subito, mi dissero di dare un tempo di 24 ore a presentarmi. Allora là di licenziai e vieni qua a Bolzano. Qua a Bolzano cominciai a lavorare e rimasi fino al 77. 27 anni continui alle acciaierie. Allora, la notare, si è andato in pensione, lo Stato non ti ha riconosciuto alcuna integrazione. Io ho fatto domanda quando sono venuto perché avevo tutti i documenti, avevo preso la malaria, avevo una ferita nella gamba perché in Albania ho dimenticato quando è venuto giù Mussolini. Siamo stati mitragliati dagli aerei inglesi, ho preso una pallottola qua, mi è entrata nel ginocchio e è uscita qua. Mi è passata qua vicino alle orecchie, ero in macchina. Ho fatto domanda e mi hanno detto: questa è accidentale, perché hanno detto non ti hanno preso in testa. Questa è stata una ferita accidentale, mi hanno fatto le visite, mi hanno levato sangue dappertutto per trovare la malaria, mi hanno detto che era guarita anche quella, hanno fatto un processo, mi hanno chiesto da Roma che dovevo andare a presentarmi a Roma e io gli ho detto: guardate che non ho soldi io da buttare via da venire a Roma, perché mi immaginavo che era lo stesso. Così non sono andato, hanno fatto il processo, mi hanno mandato tutti i documenti, io ancora a casa, e niente, mi hanno detto che stavo bene, ero un fortunato perché dopo tutto quello che avevo passato sono anche riuscito a sopravvivere. Ecco, via, finita la storia. A proposito, hanno dato una medaglia d'onore, quella sì, una decina d'anni, se no anche no, meno, mi ha chiamato, volevano che andassi da Napolitano a prenderla. Io dico di no, volevo avuto dei soldi. Allora gli ha detto: te la mandiamo al prefetto Napolitano. Mi ha chiamato il prefetto, mi ha dato la medaglia. Ciao, ecco, hai incontrato anche Napolitano. Ha incontrato anche Napolitano? Beh, Napolitano sono stato adesso perché. Ma Niente, allora, mi ha detto di star qua. Ma tu cerca di vivere, perché quando te sei morto muore la memoria, non c'è più niente. Vabbè. Allora, come a conclusione di questo dialogo, tiro un po' il filo di tutto, poi chiaramente se volete fare domande siamo a vostra disposizione. Io chiuderei con questa slide che trovate qui alle mie spalle, non lo trovate sul libro queste ulteriori riflessioni. Allora, cominciamo a capire, ma gli italiani furono, come passano, brava gente? Io qui ho preso, parafrasato, un libro di Augusto Del Bocca, il quale fu uno dei primi storici a individuare le ferratezze degli italiani in Africa. Poi ho avuto quest'anno la fortuna di leggere un libro che davvero consiglio, di Eric Gobetti, rappresentato qui alla nostra biblioteca. Eric Gobetti ha segnalato proprio l'occupazione italiana sui Balcani, e anche lì dimostrare che gli italiani furono brava gente, beh, è un mito che bisogna eliminare, perché ci siamo caratterizzati in Africa per l'uso dei diserbanti chimici, nei Balcani con i campi di concentramento. E quindi, e poi c'è il secondo punto che qui vorrei segnalare. Ho citato una frase di un giornalista morto negli anni '80, Pepe Lallo, il quale scrisse questo libro Potere e Società a Napoli nel dopoguerra. Senso dello Stato e ragione di Stato, conseguenza di un'autentica mistificazione politica. È la definizione che dà di queste frasi fatte, senso dello Stato e ragione dello Stato. Perché vorrei chiudere questo dialogo con quest'ultima affermazione? Perché sì, l'ha citato prima Bruno, nel 58 cominciarono i processi per i fatti di Cefalonia, e però si ascoltarono solo alcune testimonianze degli italiani, non furono chiamati a questi processi i rappresentanti tedeschi. Perché? Perché il mondo era diviso in due, perché non si voleva mettersi contro la Germania, quella appunto occidentale, ha fatto la scelta occidentale, e quindi tutto fu messo a tacere. Negli anni 90 viene scoperto il famoso armadio della vergogna. Un giornalista, Giusto Lisi, scrive proprio un testo dove scopre che in questo armadio della vergogna ci sono tante stragi dei nazisti in Italia, e si scoprono appunto anche alcune vicende di Cefalonia, di queste stragi che sono accadute, perché abbiamo dimenticato anche di dire, lo leggerete anche un po' sul testo, Bruno ricorda che parecchi morti furono, parecchi italiani furono a Cefalonia, dopo i fatti di Cefalonia torturati, il generale Ghezzi tornò in una piccola cassetta, chi fu bruciato, eccetera. Il generale Gambin non fu neanche più trovato, perché lo uccisero, lo riempirono di sassi con gli reticolati e lo portarono in alto mare e lo calarono. Ebbene, solo in questi ultimi anni ci sono stati dei processi, per esempio contro Malhauser in Germania, è stato condannato all'ergastolo nel 2009 in Germania. E poi c'è lui, è stato, adesso ci racconterà questo particolare, alla fine del 2013 si è stato chiamato per testimoniare contro il soldato Stork, il famoso caporale, perché pensavano che io, che fossi stato uno di quelli che mi è venuto davanti a me a fucilarmi, invece quello non, io non l'ho conosciuto, perché gli ho detto là procuratore generale lì al ministero dell'esercito, gli dici che in quel giorno che Stork dice che ha ucciso i 150 ufficiali, io ero già nascosto dai greci, perciò non potevo conoscerlo, e infatti loro mi hanno creduto. Mi hanno portato apposta a Roma perché pensavano che io conoscessi questo tizio, invece non potevo conoscere. Ecco, qui si chiude tutta la vicenda, sia di Cefalonia, di Bruno Bertoldi, se ci sono. Dimmi. Qua una cosa potrei dire, che quello che diceva prima è giusto, perché è capitato a me che mi hanno chiamato da due o tre parti a testimoniare quello che avevo visto in Russia e a Tambov, però quando io dicevo quello che succedeva con noi prigionieri, le umiliazioni e le botte che abbiamo preso, mi dicevano questo non interessa, no, non interessava. Loro interessava solo sapere dove, come ci avevano portati, dove eravamo stati, però parlare di morti, di bruciarli, di seppellirli nel fossile, non serviva niente. Domande? Io ringrazio l'amico Bruno. Vuole... No, ma parlo, mi sentono, sono tutti giovani loro. Io parlo di Bruno e ti ringrazio, perché finché tu parlavi, la mia mente mi portava alle mie tragedie dell'8 settembre, perché ho 90 anni. E a 19 anni, ma non voglio togliere i tuoi spazi, ci mancherebbe altro, però mi hai fatto rivivere queste difficoltà enormi che ho incontrato anch'io, finita la battaglia a Caio Cestio a Roma, per la difesa di Roma, sono stato abbandonato e sono arrivato a casa dopo 3 mesi, e per di più, quando sono arrivato, ho saputo che era morto mio papà e avevo 19 anni. E il motivo è che sono qui a Bolzano grazie a questa disgrazia. Perché? Perché ero diventato improvvisamente capofamiglia. Però ti ringrazio, queste emozioni tue me le hai trasmesse. Grazie. Io sono del 24. Grazie. Complimenti. Posso chiedere una cosa anch'io? Prego, certo. Io ho avuto piacere di ascoltare questa storia, perché ho rivissuto un pochettino il mio zio. Anche mio zio è stato a Cefalonia. Stato a Cefalonia, è stato alla famosa... Beh, è stato a... mi raccontava della famosa casetta rossa dove venivano fucilati. La casetta rossa? Grandino. Ma lì furono fucilati solo gli ufficiali. Certo, perché era un sottufficiale lui. Era stato già messo, schierato, già con davanti i fucilieri, e prima, un attimo prima di fucilarli, gli chiedevano il nome. Mio zio era nato a Rovereto. E perciò quella zona lì, siccome avevano ricevuto ordine che tutta la zona, diciamo che a quell'epoca l'area era tedesca, li avevo, e l'hanno tirato fuori proprio un attimo prima, va bene, di fucilarlo. Perciò io, allora, non so, magari apparteneva all'Alpe Forland, quindi il Trentino e l'Alto Adige appartenevano già al Reich. E so che raccontava appunto questo fatto qua, anche lui è tornato magrissimo, poi chiaramente di ritorno questa cosa qua, e ho ricordato questo fatto, grazie. Ma lei era un sottufficiale? Sì, era un sottufficiale. Sì. Sergente maggiore. Ho fatto un corso, sì, ero, quando mi ha congedato potevo star sottomi, perché quando sono venuto a casa mi hanno dato 3 mesi di licenza per decidere se volevo continuare sotto l'esercito, perché ormai era più di ho fatto 96 mesi fra militare e prigionia. Dal giorno che sono partito militare, dal giorno che ho preso il congedo limitato, sono passati 96 mesi. Senta, lì a Cefalonia c'era anche una divisione di soldati con la Wehrmacht, di soldati dell'Alto Adige. A Cefalonia? Sì. Ma le ho detto prima, noi a Cefalonia di tedeschi non ne abbiamo mai visti. No, vesti. Quando sono arrivati poi? Dopo. Quando sono arrivati i primi nell'agosto del 43. Era la divisione del Weiss che reclutava in questa zona. Sì. Se no, noi là sulle isole ioniche non avevamo mai visto un tedesco, no. Ma quindi anche gente, diciamo, dell'Alto Adige ha partecipato alle fucilazioni? Ma lì in mezzo erano più di metà Alto Adigino, perché quello che mi doveva fucilare me apparteneva a una compagnia qua di Innsbruck. Erano Alto Adigini, più di la metà parlavano italiano, erano meglio di noi. Sì. Erano tutti fuoriusciti, cioè fuoriusciti di quelli che avevano optato. Sì. Perché qua ne andavano molto meno, so perché non mi ricordo, ma comunque gli dice da via Tarta 30.000, eh? No, le statistiche non, per le opzioni preciso non si sa niente, comunque 75.000. quanti? 75.000. Presidente, sono tornati indietro, sì, 20.000 dopo la guerra, sì, certo. 20.000. Ma negli accordi dei Gasperi Gruber è previsto di rivedere un po' gli optanti, quelli che tornavano, proprio l'articolo 3 degli, 4 anzi, degli accordi dei Gasperi Gruber. La commissione per le opzioni ha chiuso i suoi lavori qualche anno fa, ho creato proprio una commissione provinciale ad hoc. Domande? Posso finire? E io volevo poi vuoi andare a casa? Sì, sì, volevo concludere con una mi è piaciuto anche trovare, è piaciuto questo questo inciso: nello io non acque la democrazia. Nessuno l'ha detto meglio di Piero Calamandrei in un discorso tenuto a Milano nel 55, in occasione di un ciclo di conferenze sulla Costituzione rivolta ai giovani. Scrive e dice Piero Calamandrei: i cittadini inglesi, giustamente fieri della loro Magna Carta, vanno in pellegrinaggio a Ranmait, dove nel 1215 fu concluso tra Giovanni d'Inghilterra e i suoi baroni quel primo patto che servì da fondamento a tutte le loro libertà. La Costituzione italiana, afferma Calamandrei, potrà riprendere la sua strada verso una democrazia sempre più piena e diventare una realtà politica se le nuove generazioni sentiranno il dovere di andare in pellegrinaggio col loro pensiero riconoscente in tutti i luoghi di lotta e di dolore dove i fratelli sono caduti per restituire a tutti i cittadini italiani dignità e libertà. Ecco, io credo che i partigiani morti di Cefalonia nei campi di concentramento, i militari internati, hanno riscattato la nostra libertà. Grazie e la buona serata. Vi invitiamo domani ad arricchire la vostra presenza alla biblioteca Claudio Augusto, perché domani viene presentata la storia dell'unico partigiano nero che è passato dal lager di Bolzano, Giorgio Marincola Mercuzio. Domani sera alle 18 sempre qui. Grazie.